Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo ad occuparci di satelliti stasera, Smart City e delle tecnologie che si stanno sviluppando a partire dall'ormai vasta disponibilità di dati generati da satelliti già in orbita che in molti casi sono liberamente fruibili, in teoria almeno, perché una cosa è dire che i dati ci sono e sono pubblici, altra è che siano realmente fruibili da parte di chi ne può aver bisogno. Insomma, una cosa sono i dati, un'altra cosa sono le informazioni. Ed eccoci al caso di cui vogliamo occuparci questa sera. Parliamo di Gaia G, una startup con sede a Cesena che ha lanciato da pochi mesi un nuovo servizio, una piattaforma di decision making basata in gran parte su dati satellitari. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Gaia G, Stefano Campagnolo. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto, di che dati voi vi occupate? I dati sono un po' il vostro nutrimento, ma che tipo di dati raccogliete? Da dove arrivano? Per che tipo di utilizzi sono prevalentemente usati, appunto? Sì, noi ci occupiamo dei dati satellitari dedicati esclusivamente all'osservazione della Terra, Earth Observation, quindi monitoraggio ambientale, agricoltura, energie rinnovabili, cambiamenti climatici, clima, tutto quello che è legato all'ambiente. Quindi voi misurate, velocità del vento, livello di irraggiamento solare, stato della vegetazione, no? Esatto, sì, incendi, sicurezza, tutto quanto può essere legato alle variabili ambientali tradizionali, diciamo. 50 sono, quanti sono? Una cinquantina i parametri complessivamente? Sì, indicativamente sono una cinquantina di variabili ambientali monitorate da satellite, sì. Ecco, oggi chi utilizza questi dati a che fine li utilizza, appunto? Appunto per questo i fini e i settori in cui si vanno a utilizzare questi dati sono vari, sono molto ampi, vanno dall'agricoltura di precisione alla sicurezza, alla previsioni meteo, alle energie rinnovabili. Certo, la pianificazione per esempio, sì. Pianificazione urbanistica. Perfetto, perfetto. I settori sono molti. Ecco, le fonti di questi dati, quindi quanti satelliti, poi ci sono anche delle stazioni a terra, no? Sì, la calibrazione del dato satellitare con quello misurato a terra è uno dei processi standard che si adottano in questi, certo, in questo tipo di applicazioni. I satelliti sono ESA e NASA. Okay. Poi chiaramente ci sono gli istituti di remote sensing in Cina, in India e tutto il resto del mondo. Noi ora come ora siamo focalizzati sui dati NASA e ESA, e i satelliti in orbita per l'Earth Observation in tutto il mondo sono tantissimi, insomma faccio anche fatica a quantificarli. Voi da quanti di questi satelliti però pescate? Noi utilizziamo i dati da una ventina di satelliti, okay, perché poi ci sono anche satelliti privati e satelliti pubblici, chiaramente. Certo, con delle policy diverse per quanto riguarda l'accesso, esatto, ai dati. Ecco, che di solito avviene come, appunto? Normalmente come si fa a consultare i dati prodotti da questi satelliti? Se quello è un tema, diciamo che è il principale, certo, tema a cuore degli utenti che vogliono trarre informazioni dai satelliti, e è come accediamo ai dati, oltre che poi a come li utilizziamo. Quindi l'utilizzo dei dati, ci sono diversi metodi. Noi tentiamo di lavorare il più possibile mantenendo il near real time, quindi ci dotiamo di antenne che ci permettono di avere una frequenza molto rapida di aggiornamento di questi dati, certo. Altrimenti ci sono gli tradizionali FTP, i dati d'archivio, eccetera. Però ecco, sicuramente è molto a cuore degli utenti il real time dell'acquisizione del dato, la facilità di accesso e di comprensione anche dell'informazione contenuta. Ecco, insomma, sta di fatto che oggi uno si può scaricare l'archivio dei dati di 10 giorni prima, magari fa anche fatica a interpretarlo, ed è da questi, sì, problemi che voi siete partiti per cercare di sviluppare, sì, questo nuovo servizio che, appunto, e ci siamo arrivati, in che cosa consiste? In pratica i nostri servizi, i prodotti, servono proprio a colmare quel gap che c'è tra chi mette in orbita i satelliti e chi vorrebbe usare i dati, certo. Quindi noi convertiamo, il nostro core business è convertire, processare questi dati satellitari e convertirli in un'informazione comprensibile a chiunque. Immediatamente utile all'utente, no? Quindi sviluppate, esatto, una roba ad hoc sostanzialmente a secondo di chi ve la chiede. Sì, soprattutto a secondo del target che citavamo all'inizio, che sono vari, energie rinnovabili, agricoltura, sicurezza, eccetera. Quindi molto targetizziamo poi in funzione delle necessità del cliente finale. Voi siete operativi da pochi mesi, dicevo, ci sono però già dei primi casi, no, concreti che potete così vantare. Sì, noi siamo nati 6 anni fa e sono stati 6 anni di ricerca e sviluppo testa bassa, al 100%. Adesso stiamo incominciando a muoverci con cautela, senza approcci ancora massivi, però abbiamo già acquisito delle gare d'appalto fatte anche a livello europeo, ci siamo riusciti ad aggiudicare e adesso siamo in trattativa con enti come il Ministero dell'Ambiente, due enti, uno a Pechino e uno a Hong Kong, Egeos di Tale Salegna. Sono trattative che adesso abbiamo in corso. Sono trattative un po' lunghe, certo. Però ecco, questo è quello che abbiamo in corso. Sperate in bene, insomma. Va bene, grazie Stefano Campagnolo. Prego e buonasera a tutti. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a voi tutti. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.